Letture di Radio 24. Lo scrittore Ralph Keeler, fino ad oggi sconosciuto al grande pubblico, è entrato a pieno titolo nella storia della letteratura americana come il vero antesignano della Beat Generation. A differenza di altri autori come Mark Twain o Jack London, Keeler è del tutto estraneo al successo e alla fama, tanto che il suo romanzo Vagabond Adventures, un'opera che parla della vera vita on the road e che raccoglie le sue memorie, è stato ingiustamente dimenticato. Giampaolo Serino, sulle pagine della rivista di critica letteraria Satisfiction, racconta la storia di questo scrittore tornato alla ribalta. Un uomo che ha saputo raccontare il mondo dell'uomo di strada, come ci dimostrano alcune righe del suo capolavoro Vagabond Adventures, scritto nel 1870. A raccontare per primo la figura del lobo americano non furono Mark Twain, Jack London, Charlie Chaplin o Jack Kerouac, che diedero un'epica narrativa alla dimensione del vagabondo on the road, ma lo scrittore Ralph Keeler, oggi al centro di una vera riscoperta nei campus e nelle librerie americane, ma ad oggi ancora del tutto sconosciuto ed inedito in Italia. Negli States, Keeler è stato riscoperto proprio come unico e vero antesignano della vita sulla strada. A differenza di Twain, London, Chaplin o Kerouac, Keeler non ha vissuto tra i velluti e il delirio del successo. Chaplin divenne così agiato da permettersi di fondare sull'epica del vagabondo tutta la propria fortuna. Jack London è stato la prima rockstar della letteratura con milioni di libri venduti, mentre Jack Kerouac è da tutti riconosciuto come l'icona della Beat Generation. Eppure Ralph Keeler non ha fatto una vita fuori dalle regole, soltanto tra le pagine. La sua è stata, senza dubbio, la più spericolata delle vite. È stato attore nei Minstrel Show, considerato la prima forma teatrale originale statunitense. E proprio in quegli spettacoli, Keeler lavorò tra il 1830 e il 1840, prima di diventare un giocatore d'azzardo di carte e poi un hobo che girò attraverso gli Stati Uniti durante il decennio che va dal 1840 al 1850. William Dean Howells, il più importante critico letterario statunitense dell'Ottocento, riteneva Vagabond Adventures un capolavoro ingiustamente dimenticato. Lo definì un libro che appartiene alla grande letteratura, in tutta la sua fedeltà alla vita. E in effetti le memorie di Ralph Keeler sono la prima rappresentazione americana di quella gioventù bruciata che prima di un modo di vivere divenne essenzialmente una moda. Perché, a parte Keeler e pochi altri sconosciuti, i maledetti americani hanno sempre vissuto i limiti del proprio esistenzialismo tra la gloria di un successo clamoroso e gli agi di una strada che, in realtà, era tutto tranne che on the road. Nelle pagine di Keeler troviamo quello che sarà il monello di Charlie Chaplin e tutti quei ribelli che della strada faranno il proprio suono di vita beat. Basta leggere le prime righe per comprendere come la vera avventura esistenziale non sia spingersi oltre i limiti, ma avere la forza di comprendere e decifrare il perché certe vite siano davvero spericolate. La scelta di scrivere un'autobiografia è nata non dal fatto che io supponga che qualcuno possa essere interessato alla mia persona, ma perché non vedo altro modo in cui raccontare queste avventure. Nessuno più di me può capire quanto i fatti qui contenuti siano veri. Non ho mai conosciuto o saputo di qualcuno che riuscisse a parlare per 5 minuti di se stesso senza mentire. Un sorriso esagerato o una scrollata di spalle tra una frase e l'altra o anche il tono della voce faranno sempre in modo che qualcosa rimanga non detta o detta fin troppo. E qualche merito ci deve sicuramente essere nel dire la verità, perché è dura quando sei tu il personaggio protagonista della storia e non sei affatto quello che si dice un eroe morale. Sarebbe un buon punto di partenza assumere il principio generale che un ragazzo farebbe meglio a non scappare mai via di casa. Potremmo ora metterci a fare della trita morale, sostenendo che un monellaccio non ha bisogno di andarsene in giro per il mondo a cercare guai, dal momento che non passerà molto, che saranno questi a raggiungere lui, e che la casa è l'ultima fortezza costruita dagli uomini saggi per ripararci da frecce e dardi di un'oltraggiosa sfortuna. Perciò ci si potrebbe chiedere perché il giovane fuggitivo si affretta così tanto inconsciamente a lasciare ciò che poi passerà tutta una vita a riconquistare. Ora, avendo fatto il mio dovere nei confronti di qualsiasi ragazzo dall'animo inquieto, che possa imbattersi in queste memorie ed essere influenzato dal mio esempio di vita vagabonda, mi affretto a dire che sono fuggito di casa alla matura età di 11 anni e che non sono più tornato da allora. È però doveroso per entrambi, cioè me e la mia casa, dire che non stavo fuggendo dal migliore dei focolari. Mamma e papà erano morti. Non avevo fratelli e sorelle, niente che somigliasse minimamente a un affetto familiare, ma più che altro l'opposto. Insomma, penso che se mi ritrovassi nelle stesse circostanze, beh, fuggirei ancora. Ma spero che questa mia osservazione non induca il lettore distratto a pensare che io non provenga da una famiglia rispettabile. Questo è senza dubbio un vantaggio per chi scrive un'autobiografia, dal momento che di solito un'autobiografia inizia con un protagonista che nasce da genitori poveri ma onesti, mentre io, con un po' di orgoglio e candore, posso vantarmi oggi di essere, in termini pecuniari, il più povero della mia famiglia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Giampaolo Serino, Ralph Killer, scoperto da Satisfiction, il primo scrittore della Beat Generation, dall'ultimo numero della rivista Satisfiction. Neil Cassady, l'autore de I Vagabondi, è stato uno dei protagonisti della Beat Generation, il movimento d'avanguardia artistica e letteraria nato negli Stati Uniti nell'immediato dopoguerra. È alla sua vita avventurosa, fatta di viaggi da una costa all'altra, che si ispira Jack Kerouac per il suo celebre On the Road, diventato il manifesto del movimento. I protagonisti della Beat Generation rivivono ora nel romanzo Il bardo psichedelico di Neil. L'autrice Daniela Bardelli immagina che nelle sue ultime ore di vita Neil Cassady si trovi su un autobus in mezzo al deserto del Messico in compagnia dei suoi vecchi amici Allen Ginsberg e naturalmente Kerouac. Jack Kerouac scese quasi solennemente dall'autobus e si avvicinò all'amico di un tempo, del tempo della strada, con aria impettita e la faccia compunta e seria, da professore. «Ehi, Jack, come va, amico?» disse Neil avvicinandosi quasi a toccarlo e stendendo le braccia nel gesto di volerlo abbracciare. «Tu devi stare molto attento!» lo apostrofò Jack, col dito alzato in aria di rimprovero. «Sei su una china che ti può portare solo alla rovina più totale. Devi smetterla con il bere, le droghe e soprattutto quella brutta gente con cui giri sempre», continuò Jack. «Devi lasciarli fuori dalla porta, non permettere che entrino in casa tua. È la miglior soluzione per levarseli di torno. Io faccio così, almeno». «Jack», disse Neil, guardandolo fisso, «l'hai poi visto, Dio?» «Tutta la vita hai aspettato di vederlo. L'hai poi visto?» «No», disse secco Jack, «ma lo sento nel silenzio di casa mia». «Quale casa?» chiese Neil. «La mia, di quando ero piccolo. Sto lì ora. E sì, lì il silenzio è pieno della voce di Dio». «Cosa vuoi dire, Jack?» «Che il silenzio è denso dell'energia di Dio», rispose Jack, rialzando il dito che aveva appena abbassato. «Ci ho scritto sopra anche delle cose. Vuoi sentire una mia nuova poesia sul silenzio? Se penso che prima, quando pensavo al silenzio di Dio, pensavo alla sua assenza, adesso invece penso tutto il contrario. Quando penso al silenzio di Dio, penso ad un silenzio pieno della sua presenza. Tutto il contrario, capisci? Che roba! Come si possono vedere diversamente le stesse cose, le stesse esperienze? È incredibile». La voce di Jack Kerouac divenne improvvisamente dolce e triste, quella che Neil aveva ascoltato migliaia di volte. «Negli ultimi tempi, sai, non scrivo più le solite menate di viaggi e scalate, bevute. Scrivo per me. Scrivo per capire tutto questo fatto terribile di Dio nel mondo». «Ne sei sempre stato ossessionato», disse Neil. «Sì, ossessionato, dici bene. Sono uno che vive di ossessioni», disse Jack. «Adesso c'è di nuovo Dio nella mia mente e quel silenzio che a volte ne è pieno è una cosa che ho scoperto da poco. Ho tanto tempo adesso e posso ascoltare il silenzio quanto mi pare». Poi Jack si rabbuiò di nuovo. «Neil, perché non ti sei più fatto vivo con me? Si può sapere? Sono anni che non ti fai sentire né per lettera né per telefono». «Non pensi», lo interruppe Neil, «che non ci siamo più sentiti né scritti semplicemente perché non ci capiamo più? Sai, quando mi ammiravi tanto e dicevi che ero un tuo modello e la tua ossessione, era troppo piacevole e gratificante sentirti dire continuamente queste cose. A volte ero davvero convinto che la mia vita fosse così eccezionale come mi dicevi tu, ma poi capivo di recitare questa parte che tu e tutti gli altri dopo mi avete affibbiato, quella del mitico ragazzo dell'Ovest che stava però solo nella vostra testa bacata. Non sono mai stato quello che tu credevi che fossi, Jack. Ah, quanto mi dispiace di recarti tutto questo disagio, disse quest'ultimo con voce contrita. Più sto in questo deserto, più gente mi compare davanti in questo deserto bianco e più le cose perdono importanza. Se succede una cosa invece di un'altra, se non succede, che importanza ha in fondo? Abbiamo vissuto? Ci è piaciuto? Questa è la domanda, la vera domanda. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Daniela Bardelli, Il bardo psichedelico di Neil, edizioni Volo Libero, 112 pagine, 10 euro.